La moglie di un conduttore di chiesa era sposata da 30 anni quando scoprì che suo marito aveva avuto relazioni extraconiugali con altre donne. Pensavo che se avessi affidato la mia vita a Cristo e al suo servizio, disse, e se mi fossi sposata secondo la sua volontà con un figlio di Dio, non mi sarebbero mai presentati certi problemi. Un uomo che aveva lasciato il suo lavoro secolare per dedicarsi completamente a predicare l'Evangelo, mi espose la sua delusione nei confronti di Dio. Quando sua figlia venne violentata da uno sconosciuto, per la scelta che ho fatto, mi disse, pensavo che Dio mi risparmiasse certi dolori. Dobbiamo ammettere che nel profondo del nostro essere esiste l'infinito desiderio di essere protetti dal male e soprattutto da certi dolori. Desideriamo alleviare il dolore e, per istinto naturale, gravitiamo verso la decisione di non soffrire più. Questa decisione influenza significativamente la nostra idea di Dio, e se non stiamo attenti, perseguiremo tenacemente la liberazione dal dolore con il pensiero di poter servire Cristo usando la giusta teologia e ribellandoci contemporaneamente alle vie che Dio ha scelto per noi. Proprio per questo, spesso cerchiamo dei metodi convenienti, delle formule o delle strutture che ci permettono di risolvere i problemi difficili. Quando il matrimonio crolla, vogliamo sapere cosa fare. Quando i figli cadono nel laccio della droga, vogliamo una strategia di azione. Quando i debiti minacciano, cerchiamo un metodo per recuperare e consolidare il patrimonio. Quando qualcuno inizia a lottare contro la dipendenza sessuale o del denaro, vogliamo dei metodi, dei principi, dei consigli o dei piani che ci facciano uscire dal buio dell'agonia. Ci deve essere una via di uscita, pensiamo. Qualcuno conoscerà un metodo che funziona. Non avvertirei più quel vuoto, quella confusione e quella smania. Quando iniziamo a credere che i piani di Dio per la nostra vita siano soprattutto volti a migliorare i nostri rapporti sociali e le nostre attuali circostanze negative, le chiese si riempiono di fedeli. La passione o il desiderio per una vita abbondante senza tanti traumi e sofferenze può diventare più grande della passione o il desiderio per Cristo e il suo regno. Questo obiettivo è sottile, umano, un errore molto comune. Quando il nostro obiettivo è alleviare il dolore, soddisfare i propri bisogni, vogliamo non solo rendere veloce il processo di recupero, ma con mille stratagemmi ci proteggiamo dalle delusioni. Accettare che un Dio di amore ci faccia soffrire è un miracolo divino quanto la conversione. Molte persone, pur essendo cresciute in un ambiente cristiano, hanno confessato di non aver chiaro cosa significasse credere e confidare in Dio. Il concetto di confidare in Dio non solo era per loro inafferrabile, ma lo sentivano vuoto e irreale. Cosa significava veramente confidare in Dio con tutta la vita? È interessante l'esperienza vissuta da un consulente matrimoniale con una giovane donna, che chiamandolo gli chiese un appuntamento al più presto possibile. Arrivò nel suo ufficio in lacrime e gli annunciò: «Questa settimana mio marito è tornato prima dal lavoro e mi ha detto che sarebbe andato a vivere con la sua segretaria con la quale ha una relazione. Ho implorato che rimanesse. Ho pregato che pensasse ai nostri figli e riflettesse sulla nostra vita. Ma si è fatto la valigia. E se Shin è andato? Che cosa faccio ora? Non posso vivere senza di lui». Al termine del loro incontro se ne andò incoraggiata e fissò un altro appuntamento. Nell'incontro successivo entrò nel suo ufficio sorridendo. Prima ancora di sedersi disse: «Tutto è a posto. Mi sono resa conto che Dio non sopporta l'adulterio e che vuole che le nostre relazioni siano ristorate. E la volontà di Dio che mio marito non viva nel peccato e che ritorni. Ovviamente questo avverrà, devo solo avere fede che Dio lo faccia. Io ho fede, perciò questo avverrà. Mi sento bene, adesso. Grazie per il suo aiuto. Non ho più bisogno della sua consulenza». Lo psicologo rimase a disagio e quando chiese spiegazioni le basi bibliche su cui aveva fondato una simile fiducia in Dio, rimase offesa. «Dio è un Dio buono», insistette. «Non mi lascerà sola. Lui farà ritornare mio marito. So che lo farà. Onorerà la mia fede. Questa donna, come molti di noi, credeva che le situazioni difficili obblighino in qualche modo Dio a rispondere ciò che riteniamo necessario per il nostro benessere, e per questo la nostra fiducia in Dio spesso ci mette in condizioni di desiderare di cambiare le circostanze. La nostra fede sta nel fatto di insistere che Dio opererà per noi, che sicuramente provvederà per noi e soddisferà i nostri bisogni in questa vita. Ma quale desiderio del tuo cuore sarà soddisfatto? Mentre valuti la tua vita e affronti le sue inevitabili delusioni, ti sembrerà facile iniziare a considerare la vita come una minaccia. E facile dare per scontato che la funzione di Dio sia quella di sgominare quella minaccia e di migliorare la tua vita. Ed è anche facile dare per scontato che confidare in Dio significhi che egli farà una tale cosa. Eppure non ci è niente più lontano dalla verità. Una breve riflessione sulla Chiesa del primo secolo ci rivela che i cristiani del Nuovo Testamento non cercarono mai di convalidare la verità del cristianesimo migliorando il proprio stile di vita. Per loro diventare cristiani significava vero sacrificio, e a volte anche la morte. Spesso pensiamo che confidare in Dio con l'intero nostro essere significhi cambiare una certa circostanza o un certo rapporto. Dirigiamo i nostri desideri verso Dio e ci aspettiamo che Lui ci esaudisca e ci renda la vita scorrevole, o secondo le nostre prospettive. Noi confidiamo in Lui perché faccia una differenza positiva nel corso delle cose. Devo ammettere che anch'io all'inizio della vita cristiana, forse più inconsciamente che consciamente, altrimenti lo avrei rigettato, pensavo che confidare in Dio nelle circostanze difficili mi avrebbe alleviato l'agonia e che Lui avrebbe steso un tappeto magico sulla mia prova. E è vero che Cristo ha promesso di soddisfare i più profondi desideri del nostro cuore, che sono l'aspirazione a conoscerlo e a vivere accanto a Lui. È però altrettanto vero che nel nostro profondo vorremmo vedere appagati anche altri desideri. Ma per quali di questi possiamo avere fiducia in una possibilità di appagamento da parte di Dio? Nella parola di Dio vi sono migliaia di promesse che Cristo ha fatto a coloro che pongono fede in Lui, ma quali di queste sono valevoli per me? È un errore grave e fatale pensare che tutte le promesse scritte nella Bibbia siano valevoli anche per me. Quando Pietro udì raccontare una parabola, disse a Gesù: Signore, questa parabola la dici per noi o per tutti? La domanda del discepolo è significativa perché mette in evidenza che le parole di Gesù non avevano sempre un valore universale. Ad alcune persone Gesù ha promesso la guarigione, mentre ad altre no. Ho ancora presente la drammatica, accorata e singhiozzante testimonianza di una moglie, il marito della quale era in fin di vita per aver bevuto dell'acido muriatico. Miracolosamente i medici erano riusciti a tenerlo in vita e addirittura aveva avuto alcuni miglioramenti. Così, questa disperata giovane sposa davanti alla chiesa disse di aver fede che Dio lo avrebbe guarito. Il mio cuore ebbe una fitta, sapevo che era questione di tempo e suo marito sarebbe morto. Non dissi nulla perché in quel momento non era in grado di sopportare la verità e anche perché la fede della disperazione non ha orecchi. Amare vuol dire anche lasciare che l'incoscienza prodotta dal dolore maturi con la cruda e iconoclasta verità. Del resto così fa Dio. Qualcuno ha detto che confidare in Dio significa non chiedergli niente. Sono felice che lo abbia detto un altro perché, da molto tempo, lo penso e lo metto in pratica. E una verità molto delicata da spiegare, perché non vi è nulla di sbagliato a mettere ogni cosa davanti a Dio in preghiera. Ma dobbiamo anche ammettere che esista una fiducia in Dio fondata nell'immaturità. E per comprendere questo occorre fare l'esempio del rapporto tra genitori e figli, come del resto vi è il rapporto tra Dio il Padre e i suoi figli. Quando si è bambini è normale chiedere ai genitori come ci si deve vestire, qual è la strada da percorrere per andare dal macellaio, cosa si deve fare in caso di mal di gola. Tutto è normale, tutto è giusto. Ma diventati adulti non è normale chiedere se si devono mettere degli abiti pesanti d'inverno o chiedere la strada per andare dal macellaio che si è fatta centinaia di volte e cosa fare per il mal di gola. Un adulto che continuamente chiede ai genitori per ogni cosa dipendendo totalmente da loro, presenta un'immaturità psicologica che non dovrebbe avere. Così chiedere continuamente a Dio per dipendere totalmente da Lui con la necessità di una risposta significa trovarsi al livello di questo adulto. Quando allora si è immaturi e la nostra fiducia in Dio è controproducente? Quando si chiedono continuamente situazioni le quali ci esentino dalla sofferenza? E quando si domanda se si debba fare ciò che dovremmo fare e in casi nei quali dovremmo essere in grado di discernere il bene e il male da soli? Così chiedere disperatamente e insistentemente a Dio di liberarci da una situazione o convincerci, meno come quella sposa, che Dio non permette e non permetterà una sofferenza come il divorzio, è mancanza di fiducia in Dio. Spesso noi vediamo agire Dio solo nelle circostanze dove Egli fa qualcosa che impedisca l'accadere di una certa situazione o cambi lo stato delle cose, e se non interviene a cambiare la situazione a modo nostro, diamo per scontato che Egli non vi sia coinvolto per niente. Ma lo scopo primario di Dio non è quello di alleviare le nostre sofferenze, piuttosto quello di stimolare virtù cristiane, quali la pazienza, la sopportazione, il perdono. Stessa cosa per lo svolgersi della vita. Se un bambino è ammalato, se dobbiamo intraprendere un viaggio, se dobbiamo parlare con una persona, anziché chiedere la guida possiamo confidare in Dio di avere la sapienza necessaria. Una fiducia in Dio, matura, responsabile, consapevole, il più delle volte si limita ad essere riconoscente e ha la consapevolezza di avere accanto la presenza di Cristo anche nelle difficoltà più irrisolvibili. Mentre chiedere di esserne liberati può anche essere sbagliato, non chiedere nulla è molto meglio e più sicuro, anche perché in questo modo confidare in Dio diventerà qualcosa di più di un detto cristiano. Dio sa meglio di noi ciò che ci abbisogna e non è negligente. Per questo il credente può dire: la mia coppa trabocca. Salmo 23. Ottobre 2007. Ellero.